Era la notte tra 3 e il 4 giugno del 1989, 20 anni fa, quando l'esercito cinese cominciò a muoversi dalla periferia della capitale verso piazza Tiananmen, il cuore storico di Pechino. E da quel momento cominciò il massacro contro migliaia di studenti che protestavano in piazza. Noi lo ricordiamo oggi, abbiamo al telefono una persona che nel 1989 era a Pechino, il professor Federico Masini, che adesso è preside della Facoltà di Studi Orientali alla Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Dunque, lei stava laggiù, credo che lavorasse all'ambasciata italiana. E che cosa ricorda di quei giorni? Ma ricordo il periodo, cioè quello straordinario periodo iniziato il 15 di aprile e terminato poi il 4 di giugno, durante il quale Pechino e tutta la Cina vive un periodo di grande emozione. La popolazione intera, i giornali, la stampa, i mezzi di comunicazione vissero un momento di straordinaria apertura e dibattito, come forse poi da allora in poi non è mai più accaduto. Ecco, quanto tempo ci mise il regime a decidere per il pugno di ferro? Perché ci furono contrasti forti in realtà. Molto, io credo che appunto questo periodo può essere diviso in due parti. Una parte in cui effettivamente ci fu un movimento spontaneo di studenti universitari che volevano sostenere quella parte migliore del Partito Comunista che ai loro occhi era rappresentata e incarnata dal precedente segretario del partito Hu Yaobang. E poi a un certo punto la situazione stava sfuggendo di mano. Era l'89, il muro di Berlino non era ancora caduto, in quei giorni era a Pechino il segretario Gorbaciov, l'ultimo segretario dell'Unione Sovietica ed il primo a visitare la Cina comunista dopo 30 anni, dal 59. Era un movimento di straordinaria importanza e forse a un certo punto il governo si rese conto che questa politica di progressiva apertura sociale oltre che economica metteva a repentaglio il sistema politico cinese e quindi ci fu un estremo tentativo del segretario Zhao Zeyang di incontrare gli studenti per scongiurare il proseguimento delle manifestazioni. Il tentativo fallì e l'indomani poi il governo decise, con l'ala destra, diciamo così, fra virgolette, sostenuta da Li Peng e Deng Xiaoping, di procedere a una repressione, che anche lì fu un percorso lungo e complicato. Ecco, voi che informazioni avevate? Come facevate per conoscere l'evoluzione della vicenda? Ma in realtà vivevamo sulla piazza, cioè scorrevamo gran parte della nostra giornata lavorativa sulla piazza Tiananmen occupata, parlando con gli studenti, in alcuni casi erano miei ex colleghi di università, perché quelli più grandi erano, diciamo, io ho studiato all'Università di Pechino, quindi avevo anche tanti amici che erano in quei giorni sulla piazza e quindi riuscivamo a raccogliere notizie di prima mano su quello che accadeva sulla piazza. Quello che ci mancava era il contesto politico, cioè quello che avveniva nei palazzi. Quello lo abbiamo ricostruito soltanto con il passare dei giorni, quando la situazione poi si è trasformata. Ecco, quando la situazione precipitò, arrivarono i carri armati, la polizia sparò sulla folla, mi immagino che sia stato complicato a quel punto andare per strada e cercare di capire che cosa succedeva. Come cercavate di ottenere informazioni? Avevate modo di sentire? Allora non c'erano i telefonini, penso che adesso sarebbe molto più facile. Non c'erano i telefonini e non c'erano neanche i fax, se per questo. Quindi si parlava per lo più in teleselezione per via telefono, quindi con l'Italia. Quindi effettivamente era una situazione molto diversa. Dopo la elezione, dopo il 4 di giugno, iniziò una fase completamente nuova, cioè la città era sostanzialmente militarizzata, controllata dall'esercito e la nostra funzione in quel momento, appunto le ripeto, io all'epoca lavoravo per l'ambasciata, da quella informativa si trasformò in una, diciamo così, più pratica, dovemmo andare a riprendere tutti gli italiani che si trovavano in quel momento in Cina e che chiedevano di poter essere rimpatriati. quindi personalmente giravo con un furgone con la bandiera italiana sopra, in giro per Pechino, controllata, militarizzata, con i posti di blocco, in alcuni casi con anche macerie, dei cumuli di rovine dovute agli scontri, per andare in tutta la città a raccogliere gli italiani che poi dopo raccogliemmo in un albergo e poi per i quali poi organizzammo una evacuazione con un aereo diretto per Hong Kong. Un ascoltatore, Flavio, che scrive da Trieste, le chiede proprio di quella notte, la notte tra il 3 e il 4, le chiede che cosa si ricorda lei, come venne a sapere che era cominciata la repressione? Beh, vivevamo in la città, per quanto grande, in realtà era più piccola di quello che si possa immaginare, quindi i bagliori, i rumori e anche la possibilità di muoverci nella notte ci permise di vedere molto di più di quello che avremmo mai voluto vedere, insomma. E un altro le chiede se i suoi studenti adesso sanno tutti che cosa è successo a Tiananmen. Beh, penso di sì, perché studiano una materia in cui forse lei li terrà al corrente anche delle cose recenti. Gli studenti italiani sicuramente sì, gli studenti stranieri sicuramente sì, gli studenti cinesi non necessariamente. La Cina tenta di rimuovere, di cancellare completamente questa memoria. È un'operazione molto complicata a livello collettivo procedere a una cancellazione di una memoria. Rivisitare quei fatti da parte dell'attuale compagine governativa cinese vorrebbe dire mettere in discussione il sistema politico e a torto o a ragione ritengono che questo non sia possibile, perché gli effetti di una rivisitazione di quei fatti potrebbe avere degli effetti destabilizzanti su tutto il paese e forse a malincuore anche noi ci auguriamo che la Cina non si destabilizzi, perché se la Cina dovesse vacillare forse la vita di milioni e milioni di persone potrebbe essere in pericolo. Un'ultima domanda, professor Masini, che intanto ringrazio per questo ricordo di Tiananmen. Non si sono poi mai fatti se non delle stime, dice, su quanta gente morì, perché credo che la Cina non abbia poi mai rilasciato una lista delle vittime. Quante poterono essere le vittime del massacro di Tiananmen? È difficile stabilire quante poterono essere. Per noi una è sufficiente. Certo. A noi in fondo pensare, e questo io sono convinto che i governanti della Repubblica Popolare Cinese oggi sono convinti come noi, che fu un errore assoluto, certo, dover ricorrere alla forza, perché nel momento in cui un governo sovrano deve ricorrere alla forza nei confronti della propria popolazione, questo è sempre una ferita incancellabile. Professor Federico Masini, la saluto e la ringrazio. È finito il tempo di Radio Tremondo. Il microfono va per i concerti del mattino ad Anna Menichetti, che saluto. Buongiorno Anna. Buongiorno. Lamentandomi perché un SMS è arrivato con i complimenti per te ad Anna Menichetti. Per le scelte finissime, sono una sua grande estimatrice anche di Paesiello. No, è la verità. Maria Antonietta Sorrentino da Salerno, ma insomma mandateli in un altro momento questi messaggi a te. Grazie Emanuele Giordana, domani peraltro.